solo la vita. Se ti sbatti ora, qua non rimborsano mai. E i calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza, abbastanza. Mai non è tempo per noi e forse non lo sarà.